59. Impredicibili pratiche passive fanno premio, ma oltre la più sottile attività cova una fase di terso furore degli avvenimenti. Ci siamo persuasi che non siamo fuggiti e che non ci stiamo nascondendo. Ora siamo qui. Ora siamo qui. Siamo qui. Ora succederà di tutto.